Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar! Ci siamo! Hillary ha perso! Ci siamo! Che bello! Ah, sei contenta perché Hillary Clinton ha perso? Hillary Clinton, cioè, tifi, è una chi delle... tifi tu? A chi tifi in America? Sanders, Trump? In America la campagna elettorale da sogno, nel senso che io sarei preoccupato, però Trump, dal punto di vista del nostro mestiere versus... sarebbe divertente. Sarebbe Trump-Sanders, perché in Trump entrambi Sanders. I casi mettere una valigetta nucleare con la sicurezza del mondo nelle mani di uno dei due mi terrorizzerebbe. E allora, ecco, però, e questo in realtà, ti farebbe godere, no, come perché dal campagna punto di vista ideale. Del colore giornalistico sarebbe una campagna elettorale, beh, cioè, comunque sì, nella lotta nel minori, New Hampshire alle primarie per i democratici ha vinto Sanders e quindi ha perso Hillary Clinton. Vabbè, ha perso Hillary Clinton. Hillary Clinton cancellata la faccia. Ti rende felice. E invece Donald Trump ha vinto. Perché secondo New me è evidente, dovrebbe essere i democratici, che il crisma di persona di spregiudicato potere che fa sparire le mail del servizio di Stato, essendo lei a capo del Dipartimento di Stato, dal suo server, non ha le caratteristiche. Per questo solo fatto, lei è incriminabile, con il rischio di essere incriminata per reati federali gravissimi, non è un candidabile. Quindi non è candidabile. È quindi bene. Cioè, questo ti ha fatto dimenticare anche i santi. C'è no, la sconfitta di santi, Hillary Clinton. Però c'è la fatto... prospettiva di un'America in cui i giornali italiani che dicono Hillary è già fatta di qua e di là, ragazzi, piano, piano. Piano, piano. E anche pensate, su Trump, pensate. Piano, piano. Anche se stravince anche Trump. Pensate, si è dimenticato i santi. No, per ma perché oggi sono il giorno delle ceneri, quindi oggi è il giorno in cui bisogna avere tutti l'atteggiamento estremamente compunto, perché inizia ovviamente la quaresima, quindi bisogna essere, sapere che noi siamo polvere e cenere, e ricordare però che è una grande santa, anche al di là della giornata cenere, perché è santa scolastica, cioè la sorella di San Benedetto, e lo sai che lei è la protettrice dai fulmini, pensa un po', quindi è un'altra santa che per noi contribuenti ha la sua importanza, come puoi capire, perché i fulmini dello Stato, ma tu le hai viste queste cifre del bilancio di 15 anni di terrorismo fiscale dello Stato, ecco, contro noi contribuenti? È arrivato questa mattina parlando di terrorismo, e ho detto no, come, dove, la metropolitana, no, tutto a fisco, posto, fisco. Sì, tutto a posto, perché ieri Equitalia è andato in audizione a raccontare che, come scrive a fare oggi il suo giornale, giorno delle ceneri, in 15 anni sono arrivate, scrive oggi il giornale, 217 miliardi di cartelle false. Questo è il titolo del giornale, questo sarà il titolo del giornale, ma in 15 anni il totale delle cartelle regali che sono arrivate agli italiani è stato di 1058 miliardi di euro, capisci? 1058 miliardi di euro. Cioè, esatto, però di questo totale solo il 5% è trattabile, cioè ha un presupposto reale per l'amministrazione tributaria di poter portare a qualche caso, il che significa che il 95% di oltre 1000 miliardi di euro con cui vi hanno terrorizzato, cari ascoltatori, è infondato, terroristi di Stato, punto. Punto. È la loro giornata delle ceneri, questi sono i loro stessi numeri. Vedi che i santi poi raccontano la storia dell'Italia. Ma non c'è dubbio, santa scolastica prega per noi e i fulmini restino a loro. Allora, no, ma poi io mi immagino uno che lavora in Equitalia e ti ascolta adesso. No, mi ascolta, però voglio dire, questi sono i loro dati. Se il 5% di tutti questi dati è trattabile, il 95% non no, lo grazie. È. Non lo no, è, grazie. Non lo quindi questo dovrebbe non essere. Non lo è trattabile. Pensa a un'impresa che dicesse ai propri clienti: ma scusate, il 95% delle cose che facciamo è un impiego inutile delle nostre risorse. Che dite, ci comprate i prodotti? La risposta sarebbe. Se permette. E invece, naturalmente, noi non siamo chiamati a questa scelta. Però passiamo oltre. Comunque, il numero, se volete intervenire, è 800 24 00 24. Oggi avremo più avanti Roberto Fico, che è il presidente della commissione vigilanza Rai ed è nel Movimento 5 Stelle. Quindi sai tutte le polemiche, i 150 e potremmo chiedere a lui chi è il candidato del grande concorso Canoro che blocca l'Italia. Ma la domanda è: ma chi deve vincere? Perché secondo Alzaldi non mandiamo via i vertici della Rai, cioè, dovrà vincere qualcuno renziano, perché perché se no a Sanremo, e beh, se no Sanremo antigovernativo, questi sono arroganti, bisogna cacciarli. Quindi ci sarà un candidato, forse le cantanti dai capelli rossi. A Sanremo deve vincere Enrico Ruggeri, punto. Non è che non so se per Anzaldi o no, noi tifiamo Enrico Ruggeri, la questione è importante. Dovete votare Enrico Ruggeri, che vinca Enrico Ruggeri e tutti siamo felici. Questa tutti è la posizione italiani. Ufficiale ma anche convinta di noi di Radio 24. Però guarda che il problema è importante, se non vince uno del PD renziano vuol dire che la Rai bisogna, ma guarda che questa intervista di Anzaldi è stata un pochino sconfessata dal partito. Cioè io non lo so cosa sia successo al deputato Anzaldi, che ieri sul Corriere della Sera, ricordiamo, ha sparato a zero dicendo che deve essere praticamente cacciato. Dell'Orto è inadeguato, la Maggioni è inadeguato, il direttore ha dato sincera voce a quello che pensano i renziani, tutto qui. Quindi tu dici è stato un mandato. No, io non dico che sia stato un mandato, che però lo pensino e che vogliano. Ma vuole cacciare Rai... tutti, cioè non rimane più nessuno da quell'intervista. Quindi, la sintesi è stata: cari Maggioni, cari Dell'Orto, vi abbiamo messi lì e siete irriconoscenti oltre che arroganti. Questo è... Sai, quando si chiama la riconoscenza in politica significa ricordati che comando io. Ricordati che ti ho messo lì. Quindi, è il concetto. Ricordati che ti ho messo lì. A proposito di ricordarsi chi ti ha messo lì, guarda che c'è questo dibattito appunto sui 150.000 euro di penale. Che in pratica sarebbe vietato per Costituzione, visto che non c'è il vincolo di mandato per Costituzione di parlamentare. Però dicono quelli del Movimento 5 Stelle: ragazzi, oggi c'è Danilo Toninelli, non c'è più il Duce, non c'è più Mussolini. Il vincolo di mandato nasceva anche per tutelare i parlamentari della Repubblica. Si usciva dal fascismo a dire un parlamentare deve rispondere solo alla propria libera coscienza, altrimenti è ricattabile. In realtà poi il vincolo di mandato viene da prima del fascismo, è un principio liberale, già Giolitti si comprava i parlamentari. Quindi tanto certo, però il concetto è che di fronte ai numeri snocciolati di non so quanti, 350 che hanno già cambiato casacca in questa legislatura... 264 parlamentari, oltre 360 i casi, perché c'è chi l'ha fatto due volte... Ci sono quelli del movimento che dicono basta, noi questa cosa non la tolleriamo. È un fenomeno di degenerazione, su questo sono totalmente d'accordo, però finché l'ordinamento è questo, quell'atto è giuridicamente nullo. Detto questo, però, di fronte alla base del Movimento 5 Stelle ha un grande... No, lo fanno firmare davvero, perché sì, a Roma già lo stanno firmando. Non è che giuridicamente non regge probabilmente. È un atto giuridicamente nullo, però parliamoci chiaro, di fronte alla base del Movimento 5 Stelle, i candidati che lo firmano e poi cambiano idea e subiscono una doppia gogna, perché effettivamente l'hanno firmato per candidarsi, quindi questo è il vero peso di quell'argomento. Ma tanto, scusa Oscar, uno che entra nel Movimento 5 Stelle, spesso sono persone che non hanno una storia politica, entra nel Movimento 5 Stelle e magari va in Parlamento. Se vieni espulso perché fai qualcosa che non va, pensi che tu possa avere una qualche storia politica? No, nascono e finiscono dal Movimento 5 Stelle. No, perché bisogna immaginare di no. Cioè, c'è gente aglia assolutamente incomparabile che ha avuto storie politiche di 20 anni in Parlamento. Io penso che molti di loro invece poi sono pure preparati alle 5 Stelle. Quindi non è questo il ragionamento. Però io capisco che funziona la doppia gogna. Però quello che mi colpisce di più è che, per esempio, leggere che ulteriormente tutti gli apparati di comunicazione ieri per decreto del sito del Movimento sono ricentralizzati sotto solo quelli di Camera e Senato. Cioè quello che vedo è che, avvicinandosi alle amministrative, la preoccupazione del centro, insomma del motore del Movimento, dello studio Casaleggio e così via, è quello di non perdere il controllo di nulla. Ecco, questo è quello che conta di cioè, più. Il controllo da una parte, dall'alto ti preoccupa dall'alto. Piace. È un dato strutturato di una cosa che secondo me è un po' troppo stretta. Dall'altra però, scusami, a chiedere improvvisamente, a invocare l'articolo sui diritti e doveri dei partiti, secondo l'articolo 49 della Costituzione, mai attuato nella storia della Repubblica, chi sono? Sono i rappresentanti di quei partiti che si sono appena arraffati la quota di finanziamento pubblico in Parlamento, eludendo a tavolino i controlli previsti per legge. Capisci che mi cadono le braccia? Perché, come diceva Pericle, regola santa qui in Atene, le regole sulla virtù non le scrivono i ladri del tesoro pubblico. A Pericle, Atene, V secolo avanti Cristo. Insomma. Allora, noi l'abbiamo chiamato per un altro motivo, ma essendo lui avvocato, l'avvocato Maurizio Paniz, ex parlamentare. Buongiorno, avvocato Paniz, come sta? Buona giornata. Senta, la vicenda dei 5 Stelle, dei 150.000 euro, reggerebbe in tribunale? Cioè, ti faccio firmare una penale che se cambi casacca devi pagare 150.000? No, non reggerebbe. No. Non regge perché lì una libertà di mandato che è un principio della Costituzione. Ma anche se è provato il documento, cioè il danno al movimento? Non c'entra assolutamente nulla, perché il parlamentare risponde di fronte ai cittadini, non al movimento. Però un sindaco non è un parlamentare, cioè fosse un consigliere comunale. Per il sindaco il discorso è diverso, stavo parlando dei parlamentari, certo. Per il sindaco è possibile. È possibile? Ah, cioè fare un danno d'immagine a un partito? Sì, è possibile. È possibile. È possibile perché per i parlamentari esiste una norma costituzionale che è quella della libertà di mandato. Eh? Il cittadino che viene eletto in Parlamento risponde soltanto ai cittadini. Cioè a coloro che lo hanno certo. eletto. Ma un sindaco no, un consigliere un comunale no. È un discorso diverso perché non ha questa protezione costituzionale. Effettivamente, quindi vedi che potrebbe, cioè hai creato un danno d'immagine, quindi ti denuncio. Ma l'avvocato Panis l'abbiamo chiamato perché la vicenda dei vitalizi che gli italiani non sopportano, io dico sempre, non tanto per il principio che può essere anche, ma per la quantità dell'erogazione forse del vitalizio stesso. Ma vi ricordate che erano stati sospesi alcuni vitalizi a chi aveva una condanna in passato? L'avvocato Panis ha fatto ricorso per quanti ex parlamentari è stato sospeso questo vitalizio, avvocato? Per alcuni di loro. Alcuni. Numero, c'è cioè un numero preciso? Dai, sette. Sette. E oggi ci sarà una, che cos'è tecnicamente? Un'udienza alla Camera. Una normale udienza, ce ne sono già state 4-5, cioè anche oggi un'udienza. È un percorso giudiziale che si sta portando avanti per verificare se questo provvedimento sia giusto o non sia giusto. Cioè lei vorrebbe far restituire questo vitalizio. Io ritengo che sia un provvedimento sbagliato, ma ritengo che sia sbagliato non dal punto di vista etico-morale. Perché dal punto di vista etico-morale può essere giustissimo, si può adottare la regola vale da oggi in avanti. Quello che è sbagliato è intervenire con effetto retroattivo, intervenire su situazioni che sono consolidate da 20 anni, intervenire nei confronti di persone, per esempio uno dei miei assistiti ha 87 anni, non ha altre fonti di guadagno, di entrata, non ha nessun'altra pensione, che cosa fa? Con che cosa vive? Insomma, i diritti acquisiti. È vero che 25 anni fa ha avuto una condanna, tra altre cose molto discutibile, poteva ricorrere, non ha voluto ricorrere per una serie di ragioni, per ragioni soprattutto di età, di sfiducia, eccetera. Dopo 25 anni gli togli una pensione, sarebbe come che lo Stato intervenisse nei confronti di tutti quei milioni di cittadini che sono i baby pensionati. Voi sapete che qualche decina d'anni fa è stata inventata una norma per cui chi aveva teoricamente 16 anni e poco più di lavoro nella pubblica amministrazione, realtà non erano mai 16 perché si riscattavano gli anni dell'università, si riscattavano gli anni delle maternità, eccetera, quindi gente che ha lavorato 10-12 anni per la pubblica amministrazione poteva andare in pensione, gente che è andata in pensione che aveva meno di 40 anni per essere chiari, sarebbe come che oggi, siccome la norma è palesemente ingiusta nei confronti di tutti gli altri cittadini, improvvisamente si dicesse a queste persone, faccio una battuta, faccio una battuta, non so Oscar, sarebbe come se il governo cambiasse le pensioni con la riforma tipo la riforma Fornero. Ma vedete che per la riforma Fornero, che era palesemente un'ingiustizia, le cose sono state messe a posto, nel senso che i cittadini che sono stati privati del denaro per effetto di errori contenuti nella norma Fornero, con un po' di pazienza però hanno tutti ricevuto perfino gli arretrati, addirittura con gli interessi. Quindi comunque, lei capisce perfettamente che occorre il rimedio. Panis, non capisco perché da contribuente lo Stato, e lei quando è stato legislatore lo sa, mi ha abituato ad avere decreti retroattivi fiscali. L'aumento della tassa... E invece no, sì. Guardi, il allora, perdonami, faccio parlare. Quando abbiamo modificato il regime fiscale, per esempio, delle gestioni delle casse previdenziali private, lo abbiamo fatto retroattivamente con la legge di stabilità cominciata dal gennaio dell'anno alla fine del quale c'era la legge di stabilità approvata in Parlamento. Allora, potrei farle 20 esempi di questo tipo. Quindi, è la sua osservazione, mi faccia finire. Secondo il fondamento che il vitalizio sia equiparabile alla previdenza, come sa, in termini di diritto e anche costituzionali, è un'elaborazione di voi parlamentari. Perché non è esatto, sì, è la Corte Costituzionale che ha dato la risposta. No, mi perdoni. La Corte Costituzionale non equipara neanche nella sentenza che lei probabilmente si appresta a citare la piena equiparazione che lei fa con il ragionamento e che è alla base di tutte le pretese per le quali sui vitalizi parlamentari bisogna adottare un criterio analogo a quello delle pensioni. Le cito una sentenza di un mese e mezzo fa emessa dal TAR del Veneto, nei confronti del quale ero ricorso per alcuni ex consiglieri regionali del Veneto, che si lamentavano, secondo me giustamente, perché improvvisamente è stata tagliata l'entità del loro vitalizio. Sì. Ho ricorso al TAR del Veneto, il TAR del Veneto ha detto si tratta di un provvedimento che ha riferimento a una norma che si riferisce a un contenuto pensionistico, per cui la giurisdizione aspetta la Corte dei Conti. È l'ultima pronuncia che ha equiparato il vitalizio a un trattamento pienamente pensionistico. È di un mese e mezzo fa ed è del TAR del Veneto. Quindi non è esatta l'affermazione di principio che lei mi fa. È esatta perché io richiamo la Corte Costituzionale. Ma anch'io la richiamo la Corte Costituzionale. Che non, vero ha mai che non ha mai equiparato. Mi un diritto che... e dispiace, mi dia gli estremi della sentenza, la richiameremo e vedremo. Sono tutte le sentenze assolutamente messe no hanno, perché lei sa quali sono i presupposti della tutela del parlamentare nel nostro ordinamento e non c'è quello previdenziale, non hanno c'è. Equiparato il trattamento del vitalizio a quello pensionistico. Benissimo. Quindi il principio è chiaro da questo punto no, di no, vista. Per nulla. Vabbè, è la sua opinione è diversa. È anche la sua che sostiene una parte, mentre invece state stressando un presupposto giuridico. Perché tutelate i diritti dei parlamentari. Però va benissimo, è chiaro agli ascoltatori che la questione è aperta. Non tutelo il diritto del parlamentare, tutelo il diritto di qualsiasi cittadino italiano in uno stato di diritto a di non vedersi cambiare le regole mentre la partita è in corso. Però, le regole si cambiano da oggi in avanti e questo vale per tutti. Voglio vedere. Però avvocato, la sospensione del vitalizio è venuta dall'ufficio di presidenza della Camera. È un errore. Quindi voglio dire, se l'hanno fatto su presupposti. Dovevano farlo, se volevano farlo, a livello legislativo. Perché il vitalizio è un provvedimento che è previsto nella nostra Costituzione, quindi ci voleva una norma, tant'è vero che i pareri... Il vitalizio è previsto raccolti. Nella Costituzione, a che articolo? No, Costituzione... È un riferimento, scusi. Al vitalizio? Certamente alla libertà del parlamentare di poter esercitare il proprio mandato anche dal punto di vista economico e il principio è stato ribadito da alcuni costituzionalisti. Ma alcuni costituzionalisti, siamo ad alcuni perché nella Costituzione c'è scritto che va garantito il diritto a non essere danneggiato nella propria vita economica per l'esercizio dell'attività parlamentare. Non c'entra niente avere una cosa a vita. No, guardi, sono due cose diverse. Esatto, e lei ha detto che sono la stessa cosa, però io siccome ne sono convinto, obietto. Il principio espresso dalla Costituzione per la quale il vitalizio è un trattamento pensionistico è una cosa. Il principio per il quale si può intervenire e si deve intervenire se si vuole senza effetto retroattivo è un'altra cosa. La norma dell'ufficio di presidenza della Camera e del Senato è intervenuta violando il principio della retroattività. Avvocato, è un principio che ha natura costituzionale e rispettato sistematicamente dalla normativa europea. Noi vedremo come va a finire. Sa cos'è che il problema di Oscar è che è granata. Volevo buttare sul calcio. Infatti Panis quando lo becco dice un principio costituzionale vitalizio, dice non è un principio costituzionale, basta che sia chiaro questo, poi sulla fonte del diritto non è chiaro proprio per posso niente, dargli ragione. Scusi, quello che dico lo dico con assoluta certezza, in Costituzione il diritto al vitalizio non c'è, però detto questo io la rispetto perché lei si sta battendo per una causa e quindi svolge un mandato. È una causa che riguarda tutti i lavoratori italiani, perché guai se in uno stato di diritto passasse il principio che un datore di lavoro può unilateralmente da un momento all'altro intervenire su una retribuzione tagliandola. È un principio che non può passare, può riguardare qualsiasi lavoratore. Sul reddito degli italiani con pretese retroattive fiscali capita regolarmente, perché a questo ci avete abituato. È sbagliato. Gli italiani se lo devono beccare con questo principio. La Corte Costituzionale, come lei sa, alcuni mesi fa è intervenuta proprio attuando la normativa aveva tagliato trattamenti pensionistici, perché non si può farlo con effetto retroattivo. E lei, se conosce la normativa, e la conosce sicuramente, sa che la Corte Costituzionale lo ha ribadito qualche mese fa nei confronti di alcuni milioni di cittadini italiani. Quindi il principio è un principio di Stato di diritto. Comunque, avvocato, vedremo come va a finire. Ci fa un pronostico per sabato Juve-Napoli? Lei tifosissimo della Juve. Sa come la pensa, Panis. Magari è scaramantico. No, sono molto scaramantico, perché prima della partita d'andata ho detto che avrebbe vinto la Juve 2-1 e ha perso, come notorio. Quindi adesso diciamo che vince il Napoli 2-1 e speriamo che poi piano succeda esattamente il contrario. Simmetria. Noi lo speriamo. Comunque la ringraziamo, avvocato. Buona giornata, ovviamente. Maurizio Panis. È sempre un piacere. Buona giornata. Grazie, avvocato. Dopo tra 3 minuti. pubblicità, due minuti, chiamate su questo, su quello che volete, ma avremo poi Roberto Fico, Roberto che, Fico. Che è di Napoli invece, ci chiederemo il pronostico anche a lui. Eh beh certo, sarebbe a dire. Poi ti racconto, tu lo sai come nasce la casacca della Juve bianconera? No, adesso me poi lo te lo racconto, tra quando un attimo, torniamo. Tra un attimo, tra poco. Allora, le 8 e 42 minuti. Adesso, caro Oscar, e stai attento che entri in un campo minato, devi raccontarci perché la Juve ha la maglia bianconera. No, beh, adesso, cioè, nella storia i tifosi lo sanno, è un errore la maglia della Juventus, perché è un errore su le bande che non dovevano essere verticali, dovevano essere orizzontali e così via. Ma il motivo vero motivo, vero motivo. Vero all'inizio motivo. Non era così, perché non era così? Era proprio di un altro colore, la società non aveva deciso questa impostazione, però fin dall'inizio, fin dalle prime partite, nel primo campionato, non era ancora campionato, i referee, gli arbitri erano alla Britannica con la divisa nera, sì. Se non che sempre arbitri italiani erano, per così dire, e quindi dopo un po' iniziò a essere chiaro che volevano gli assegni con la divisa nera, ma gli assegni in bianco, e la società disse: eccoci, bianco nero è il nostro colore della bianco degli assegni in bianco agli arbitri è neri, incredibile, capisci? Perché ha trovato uno che fa più battute della Juve di me. No, Oscar Giannini. Oh, naturalmente, cari, si scherza, lo sapete, si scherza. Che noi bastonati, scherza, granata, così, scherza, ma ci difendiamo con la lingua. Ma peraltro granata vi... te, io milanista. Lo so, però no, io sto spiegando di me. Per carità, onore alla forza distruttiva degli arieti juventini. Però sabato vediamo, ecco, sabato. Anzi, domenica anzi. Vediamo. Non lo so, vogliamo, se ci consente, visto che avevamo avuto Paniz che ha detto 2-1 per il Napoli finirà, ma l'ha detto scaramanticamente, non so se Roberto Fico, che è napoletano, presidente commissione vigilanza RAI del Movimento 5 Stelle, si vuole azzardare a fare un pronostico, vuol fare anche lei, così dai, su. Sì, sono sicuro che vincerà la Juve 3-0. Vabbè, siamo veramente, no, alla scaramanzia pura, la scaramanzia, certo, di Paniz, certo, 3-0, 3-0. Sì, tu è fortissima, sabato ce la farà. Ce la farà, tra un trionfo bianconero. Vabbè. Comunque, allora, per tutti gli ascoltatori, l'esito, se dovesse finire nella maniera forse più improbabile, ma che la coppia di conduttori sì. Noi manderemo l'audio. Lunedì mattina all'appuntamento della ripresa di Attenti Noi Due, qualche sorpresina. Ascoltateci. No, comunque, Fico, parliamo di cose più serie. Buongiorno, allora, buongiorno. L'ha letta anche lei l'intervista ad Anzaldi sul Corriere, sì, della Sera, che insomma è come presidente della commissione di vigilanza, visto che ce l'ha in vigilanza, che ne pensa? C'è un'intervista legittima di uno che esprime le proprie opinioni, oppure la legge come un mandato quasi di partito contro la RAI? Il punto è questo: secondo me ognuno può esprimere le proprie opinioni e tali devono rimanere. Il problema è che nel nostro paese troppo spesso sono arrivati editti vulgari e allora si leggono le cose in un altro modo, ma per me devono essere lette per quelle che sono, senza nessun tipo di influenza o di potere sui giornalisti, che devono avere la loro autonomia, o sull'azienda. Possono essere esclusivamente punti di riflessione e di dibattito, niente di più e niente di meno. Se uno vuole arrivare oltre quello che si dice, allora assolutamente va stoppato, fermato. Però voglio dire, quindi è legittima l'intervista, però non vuole che questo abbia ricadute, immagino, a livello... No, ma non devono avere ricadute, non può avere ricadute un'intervista o due parole di un segretario della commissione di vigilanza, se in questo paese le cose sono funzionate sempre in un modo e ora che cambino definitivamente. Senta, sul canone della RAI si è capito tutta la questione, ma lei è d'accordo su questo canone della RAI che sarà in bolletta? Si è capito se non pagheranno gli arretrati chi non l'ha pagato prima e pagherà magari da quest'anno in bolletta? È tutto chiaro? Posso dare qualche informazione in più? Il canone in bolletta comunque viene riferito a come una tassa di possesso, e quindi chi possiede il televisore deve pagare il canone e non vengono richiesti gli arretrati, questo sicuro. Non vengono richiesti gli arretrati? No, in alcun modo. Peraltro, no, adesso spetta a me dire, non spetta alle prerogative parlamentari, quindi no, non, certo, non alla commissione vigilanza, però facciamo un appello all'Agenzia delle Entrate di emanare al più presto possibile i moduli per le autodichiarazioni, cioè i tanti certo. milioni di italiani, perché deve coincidere, perché sia legittima la pretesa, la residenza anagrafica e della casa in cui hai l'utenza elettrica, no? Questo è il presupposto della legge. Allora, per tutti coloro che hanno utenza e residenza che non si identificano, sarebbe necessario metterli in condizione come cittadini di poter fare l'autodichiarazione nelle forme previste dalla legge secondo il modulo autodichiarativo. L'Agenzia delle Entrate ancora non lo rende noto. Cara Agenzia delle Entrate, evitiamo di mettere milioni di italiani nella condizione che gli pigliate il canone dalla bolletta e poi bisogna impugnarlo. Ecco, se si può evitare è meglio. Sì, uno dei punti però fondamentali secondo me di questa legge che non va bene è che oggi le persone che si trovano a pagare il canone alla fine finanzieranno altre voci di bilancio del Stato. Questo è il grande problema, perché se io sono consapevole e cosciente di pagare il canone per finanziare la televisione pubblica, la televisione di Stato e quindi la televisione dei cittadini, di cui sono i veri finanziatori, non posso tramite il canone poi andare a finanziare il fondo per le televisioni private, il fondo per l'abbassamento della pressione, per l'abbattimento della pressione fiscale e così via. Cioè viene deviato in un altro modo. Oltretutto, se a questo punto il canone viene gestito totalmente dalla fiscalità generale, allora c'è anche un problema di indipendenza, perché se il governo ha chiuso i rubinetti si mina l'indipendenza del servizio pubblico, ed è per questo che l'assetto generale della legge, anche del fatto che il governo nomina senza alcun tipo di cuscinetto l'amministratore delegato con pieni poteri, non va assolutamente bene. Senta Fico, lei siede alla Camera, ma al Senato oggi inizia tutta la questione delle unioni civili, che ha coinvolto anche in una polemica molto forte il Movimento 5 Stelle per questo cambiamento che c'è stato, no? Che Grillo poi ha spiegato dicendo si votò sì alle unioni civili, ma non c'era la step child adoption quando facemmo il sondaggio, diciamo, nella base. E quindi ora libertà di coscienza. Però c'è stato un po' un dietrofront, un cambiamento, un disorientamento da parte della base. Vorrei chiarire, perché non è stato un dietrofront, anche perché noi voteremo le unioni civili in modo praticamente compatto, saranno pochissimi i senatori che non, ma due o tre senatori che non saranno decisivi sicuramente per il voto. Noi il 28 ottobre del 2014 abbiamo votato sulla nostra applicazione dove possono votare tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle per le unioni civili. E le unioni civili abbiamo votato in maniera grande maggioranza, ha vinto il sì per le unioni civili. Poi c'era l'articolo 5, lo step child adoption, e allora lì non abbiamo fatto un voto, e dopo che è passato circa un anno e questa questione è venuta fuori in modo più dirompente, e quindi libertà è chiaro coscienza. Che abbiamo deciso di dare libertà, però la di linea coscienza. È votare sì alla legge, ma mi faccia capire, se non passa la step child adoption, cioè se viene estrapolata, quindi è la legge senza le step child adoption, viene votata? Sì, comunque voteremo sì, perché sulle unioni civili abbiamo anche il mandato dei nostri iscritti certificati. E se invece rimane la step child adoption, libertà di coscienza. Cioè su tutta la legge però, su libertà di coscienza su tutto l'impianto a quel punto. Perché poi sì, la libertà legge... di coscienza su tutto l'impianto, perché però sull'impianto, sull'articolo 5 dove c'è la step child adoption, ho capito, però ma le dico che i numeri del Movimento 5 Stelle sono abbastanza incontrovertibili, perché le persone che non vogliono votare l'articolo 5 sono poche, si sono anche dichiarate, sono davvero poche, quindi diciamo, alla fine non cambia assolutamente la maggior parte, niente, noi siamo uniti, andiamo avanti su questa legge. Quindi lei dice la maggior parte dei senatori voterà per la step child adoption, anche perché sì, per tutto l'impianto della legge non c'è ombra di dubbio, ma poi soprattutto si cerca di buttare un po', di provarci come fa Renzi, di buttare problemi sul Movimento 5 Stelle, quando in effetti noi siamo l'opposizione in ogni caso, e la maggioranza, che è composta da Alfano, NCD e il PD, hanno problemi al loro interno. Allora però vede Fico, proprio questo che sta toccando è il punto, se mi posso permettere di osservarlo molto pacatamente. Sì. Cioè un provvedimento come quello sulle unioni civili, compresa la step child adoption, io capisco l'opinione di tutti, per carità di Dio, è una questione di merito, e io infatti dai 5 Stelle, dal vostro movimento, mi aspetto e apprezzo molto quando le posizioni sono prese sul merito, no? Allora l'impressione, un po' come ha detto lei in quest'ultima parte delle sue osservazioni, è che nella presa di posizione, nell'annuncio della libertà di coscienza solo sulle step child adoption, a questo punto decisivo della legge, abbia contato un argomento che con il merito della legge c'entra poco, anche se è comprensibile in politica. Cioè, non facciamo un favore a una maggioranza in difficoltà e al governo, che, per carità, io capisco come ragionamento politico. Per cambiare la politica, io preferirei che ci fosse un giudizio sul merito, perché il merito è sono materie così importanti che uno capisco che possa essere per il sì, per il no, per entrate e sfumature. Se all'ultimo secondo prima del voto prevale il ragionamento del governo e della maggioranza a cui non dare la stampella, posso capirlo, però mi fa tanto vecchia politica, questa è la mia opinione. Ecco. Sì, infatti io le dico che secondo me su provvedimenti così importanti, perché si parla di diritti delle persone, non ci può essere uno scontro politico classico come può avvenire in altri casi. Qua si deve viaggiare e volare molto più alto e si deve andare solo ed esclusivamente sul merito. Noi abbiamo votato già nel 2014 le unioni civili e poi c'è stata la problematica degli step child adoption e quindi automaticamente abbiamo deciso di cambiare, di dare la libertà di coscienza. Però la lotta politica nel senso classico, governo non governo, maggioranza non maggioranza, non è entrata in questo caso. Senta, invece ieri, Fico, sono volate parole al grido di fascisti, no fascisti voi, in pratica tra voi il PD, su questa storia del documento per cui fate firmare con la penale di 150.000 euro chi si candida a Roma, per riassumere in maniera molto stringata. Lei è a favore di questo documento? Cioè, è giusto secondo lei questo principio? Nasce tutto anche da una constatazione: il terzo partito alla Camera dei Deputati è il gruppo misto, quindi è reale questa problematica del trasformismo, ci sono mille volte Gabbana e questa è una pratica che si deve concludere. Noi un codice di autoregolamentazione di questo tipo lo abbiamo già approvato, sottoscritto e firmato con i parlamentari europei. Quindi non è capitato e non è stato scritto niente di nuovo, già era in essere con le elezioni al Parlamento europeo. Mi sembra strano che adesso all'improvviso riesca questo argomento, che già è nei fatti nel nostro regolamento in Europa. Quindi è un finto stupore, già lo facciamo. Sì, è un finto stupore, già lo facciamo, non capisco perché adesso c'è tutta questa... Vabbè, lo comprendo, però ogni volta vorremmo parlare anche un po' più di cose importanti e del merito, invece... di essere costantemente in polemica, perché l'Italia non è il confronto in questo caso su temi tra noi e su polemiche sterili che il PD vuole fare ogni giorno con noi. Si devono affrontare le tematiche, si devono affrontare i punti importanti del paese, i nodi importanti, e su quello che si dovrebbe tenere alta l'attenzione. Vabbè, noi il tempo è finito, le volevo fare un'ultima domanda su Quarto, se è in 10 secondi, ha visto che il sindaco Rosa Capuozzo fa marcia indietro, dice però non è più il vostro sindaco, dice faccia quello che vuole, però che pensa? È nel suo diritto di ritirare le dimissioni, quindi... A lei e ai consiglieri comunali ormai anche di opposizione che sono entrati in maggioranza di fare le loro scelte. E hanno fatto così. Intanto la ringraziamo, i pronostici sono salvati, 2-1 per il Napoli secondo Paniz, 3-0 per la Juve. Ma noi non Roberto diciamo, Fico. Noi sappiamo il risultato, non è vero, non sappiamo niente, però come sappiamo tifiamo. Naturalmente la notizia del giorno è anche un'altra, dopo quella della sconfitta di Hillary, un altro uomo di Renzi che controllerà i cavi Telecom, l'hai vista questa bella Sul notizia? Fatto Quotidiano. Il conflitto di interessi non esiste, è abrogato perché vive e lotta insieme a noi ogni giorno. No. Vedremo come va se vedremo. C'è questa nomina garantista, sì dai, ciao, a domani.